Il padre Ferré, come avete già sentito, è anche lui professore all'Istituto di Studi Musulmani e Islamistica di Roma, a Lipiea, ed è anche impegnato in un dialogo più diretto con alcuni musulmani, sia in Tunisia sia in Francia. Allora l'avevo pregato di esporci quali sono le condizioni in cui si è realizzato questa possibilità del dialogo diretto con alcuni musulmani. Padre Ferré, la parola a lei. Grazie. La mia relazione sarà molto breve, siccome stiamo arrivando già al traguardo. Quando si intravede il traguardo, si accelera, no? Vi parlerò del gruppo di ricerche islamo-cristiane, cosiddetto il GRIC, la sigla è GRIC, è più facile usare questa sigla. Questo gruppo, questo GRIC, è nato nel 1977 per iniziativa di alcuni amici cristiani e musulmani che cercavano di condurre insieme una ricerca comune nel campo del dialogo islamo-cristiano. Questa iniziativa si inserisce nella nuova atmosfera che ha caratterizzato i rapporti della Chiesa cattolica con le altre tradizioni religiose dopo il Concilio Vaticano II. È legata pure all'evoluzione del mondo contemporaneo, in cui lo sviluppo dei media e dei trasporti cancella le frontiere naturali e facilita gli incontri a livello planetario. I loro contatti con persone o gruppi diversi incitano molti credenti a riflettere sulla loro fede, ad esaminare alcuni aspetti della loro tradizione religiosa, non soltanto all'interno della loro società, ma anche insieme con credenti di altre religioni. Per quanto riguarda i rapporti tra cristiani e musulmani, gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati da un numero impressionante di colloqui, convegni, congressi, eccetera, a livelli diversi e dedicati ad una grande varietà di temi. Tali iniziative sono utili perché offrono la possibilità di confrontare le ricerche e le riflessioni di ambo le parti e di creare dei rapporti di amicizia, almeno è quello che, ciò che cerchiamo noi, di amicizia e di lavoro tra i partecipanti. Però il fatto che si tratta di avvenimenti circondati da una certa pubblicità, diciamo, e che i rappresentanti hanno in un modo o nell'altro una funzione ufficiale, dà a questi incontri un'impronta particolare. Il GRIC, dunque, è stato ideato alla luce di queste esperienze, da cui ha tratto profitto, anche se intende differenziarsene. Infatti, il GRIC non è un centro di ricerche composto da membri titolari, né un'assemblea di esperti musulmani o cristiani. Le qualità che sono state ritenute essenziali per i membri sono le seguenti: essere familiarizzato con le esigenze della ricerca scientifica, avere una conoscenza seria della propria tradizione religiosa e dei suoi problemi attuali, ed una conoscenza sufficiente dell'altra tradizione, essere disposto a partecipare ad un lavoro comune per aprire strade nuove alla riflessione. I membri devono essere inoltre pienamente solidali con la loro comunità, ma è escluso qualsiasi mandato ufficiale che sia dato dalle autorità religiose o politiche. Questo carattere personale, diciamo privato, della partecipazione di ogni membro è apparso indispensabile per poter garantire una ricerca libera. Ciò non significa che i membri del GRIC siano indipendenti dal loro gruppo religioso, dalla loro gerarchia. Anzi, è chiaramente affermato negli statuti che ognuno deve essere totalmente solidale della fede con la sua nella fede con la sua comunità ed assumere l'eredità storica della sua tradizione religiosa, riservandosi però il diritto di usare il suo giudizio critico. Il GRIC non ha affatto intenzione di raggruppare dei franchi tiratori separati dalla loro comunità. Se il gruppo è privato, tuttavia non costituisce un club chiuso. Tutte le persone interessate a queste ricerche possono parteciparvi, alla condizione di accettare il testo fondamentale degli orientamenti generali, che vedremo più avanti. L'indipendenza nella ricerca è stato uno dei punti più discussi durante le prime assemblee generali, ma ci si è finalmente messi d'accordo sul fatto che essa non è che l'espressione moderna di una dottrina tradizionale sia nell'Islam che nel cristianesimo. Nella tradizione islamica abbiamo il principio dell'ijtihad, o diritto alla riflessione personale, che è riconosciuto a qualsiasi fedele musulmano dotato di una competenza sufficiente nelle scienze religiose. E per quanto riguarda il cristianesimo, basta ricordare che nella Chiesa Cattolica il Concilio Vaticano II ha a più riprese riconosciuto ai teologi la libertà di ricerca sotto il controllo del Magistero. Dunque, nei primi mesi del 1977 fu inviato ad una cinquantina di persone, musulmani e cristiani, un testo intitolato «Progetto di creazione di un gruppo di ricerca islamo-cristiano», nel quale erano esposti i motivi e lo scopo della creazione, i criteri richiesti per farne parte, un programma generale di ricerche ed il metodo di lavoro. E poi, successivamente, una quindicina di cristiani e musulmani si incontrarono nell'abbazia di Senanc, nel sud della Francia, e dopo una lunga discussione adottarono il testo degli orientamenti generali per un dialogo in verità. Questo è il titolo del documento, che è diviso in sei parti. Non intendo leggere questo documento, soltanto menzionare i titoli delle sei parti. Prima parte, fedeltà alla nostra fede e apertura all'altra. In questa prima parte viene condannata qualsiasi forma di sincretismo che tenderebbe ad occultare le differenze essenziali tra le due religioni. Ma d'altra parte, dice il documento, essendo convinti che le convergenze tra le nostre posizioni sono più numerose di quanto lo si creda generalmente, noi pensiamo che valorizzandole apprezzeremo meglio le divergenze fondamentali. La seconda parte tratta della rappresentanza dei membri, tra virgolette, per dire che tutti i membri devono aderire pienamente, essere pienamente fedeli alle fonti della loro fede, ma che loro sono dei credenti che cercano di capire meglio la loro fede, di rispondere alle sue esigenze nel mondo odierno, e così di contribuire a far progredire le nostre comunità. Terzo punto, accettare lo sguardo dell'altro. Ognuno di noi, dice il documento, deve essere pronto ad accogliere la posizione di ciascuno degli altri, tale e quale egli la presenta, dopo una matura riflessione, a costo di chiedergli che accetti di sottoporla alla critica degli altri membri. Normale. Quarto punto, non siamo i proprietari delle basi della nostra fede. Il documento prosegue, noi musulmani e cristiani non pensiamo che la parola divina fondatrice della nostra rispettiva fede ci appartenga in modo esclusivo. Di conseguenza, accettiamo che diverse letture, tra virgolette, letture della storia della nostra fede e della nostra scrittura siano fatte a partire da una fede diversa dalla nostra. Quinto capitolo, la nostra fratellanza nella fede. Il documento dice: dobbiamo ritrovarci insieme fra credenti per affrontare insieme come credenti queste sfide del mondo odierno, per le sfide del mondo odierno, per trasmettere alle nostre comunità rispettive gli interrogativi a loro posti da queste sfide, rendendole capaci di trovare le risposte convenienti. E infine, punto, l'assenza della voce del giudaismo e delle altre religioni e ideologie. Gli orientamenti si concludono con l'affermazione che il dialogo è stato limitato ai credenti dell'Islam e del cristianesimo solo per motivi pratici. È più facile iniziare il dialogo in due, dice il documento. Ma per quanto riguarda il giudaismo, la sua assenza è legata anche ai problemi politici attuali, che è il problema della, diciamo, della Palestina, per essere breve, è ineluttabilmente sollevato in ogni incontro tra giudei, musulmani e cristiani, e i membri del GRIC non hanno pensato utile di aggiungere ancora questo problema a tanti problemi che loro incontrano. Il GRIC ritenne come primo tema di ricerca quello della scrittura, un argomento che era stato considerato come uno dei punti essenziali di lite fra le nostre tradizioni religiose. Una proposta di collaborazione fu indirizzata ad un numero di musulmani e cristiani, soprattutto esegeti e teologi di formazione universitaria. 16 di loro redassero un testo personale nel quale ciascuno esprimeva le sue riflessioni sulla dottrina cristiana o islamica delle scritture. Due relatori, un musulmano e un cristiano, basandosi su questi 16 contributi, compilarono una sintesi che fu discussa poi nell'Assemblea Generale del 78. Nella stessa Assemblea furono fissati il metodo di lavoro e le strutture del GRIC con le sue sezioni locali. Poi, per esempio, alla sezione di Parigi fu affidato lo studio dei problemi generali legati al tema: che cosa significa parola di Dio, le diverse letture, eccetera. Poi le altre sezioni hanno avuto il compito di indagare su, per esempio, come ciascuna delle due comunità percepisce e giudica i testi sacri dell'altra comunità. Il lavoro di coordinazione spettava al segretario generale e ai due relatori. Fu deciso inoltre di organizzare un'assemblea annuale con la partecipazione di una ventina di delegati, a parità tra musulmani e cristiani. I rapporti preparati dalle diverse sezioni furono successivamente studiati, valutati, rielaborati nelle assemblee tenutesi dal 79 all'82. Questi incontri annuali conobbero dei momenti di tensione e di discussioni accanite, soprattutto a proposito del modo di trasmissione della parola di Dio, un problema veramente fondamentale, o della valutazione dei testi sacri rispettivi da parte dell'altra comunità. Ma i rapporti amichevoli tra i partecipanti non furono mai rimessi in causa e si raggiunse ad un testo definitivo, il quale è stato pubblicato finalmente nel 1987 in francese sotto il titolo Ces écritures qui nous questionnent, queste scritture che ci interpellano, un volume di 159 pagine. Si spera che sia tradotto, in altre lingue, per il momento è soltanto in francese. Il libro è stato firmato da 37 collaboratori, 14 musulmani e 23 cristiani. Tutte queste persone hanno partecipato in diversi modi all'elaborazione del testo, o almeno di un capitolo. È da notare che due collaboratori cristiani, pur approvando l'insieme del contenuto, hanno espresso le loro divergenze su dei punti particolari. La loro posizione, non ritenuta nella redazione definitiva, è stata aggiunta in un annesso al testo. E nel frattempo le sezioni del Greek avevano proseguito le loro attività, iniziando lo studio di un nuovo tema, quello della secolarizzazione, un tema proposto da un collaboratore musulmano. Si tratta di un problema forse più delicato in una società islamica, in cui Stato e religione sono strettamente uniti, ma anche le società di tradizione cristiana sono preoccupate dalle conseguenze di un ambiente secolarizzato sulla fede ed il comportamento religioso dei loro membri. La riflessione sul problema della secolarizzazione è durata 3 anni, dall'82 all'85, concentrandosi sui rapporti tra Stato e religioni. Un breve documento fu elaborato sotto la forma di un articolo pubblicato nella rivista Islamus Christiana, numero 12 dell'anno 86, con il titolo Età e religion, Stato e religione. Nell'assemblea dell'85 è stato scelto un terzo tema di ricerca, fede e giustizia. Le diverse sezioni lo stanno ancora studiando. E la prossima assemblea annuale si terrà nel mese di agosto nelle vicinanze di Roma e dovrà definire un nuovo tema di ricerca. Così il Greek prosegue sulla sua strada, nonostante alcune difficoltà che non devono essere passate sotto silenzio. Anzitutto, una collaborazione regolare alle discussioni e ricerche richiede da parte dei membri una grande disponibilità, non sempre conciliabile con i loro impegni professionali. Una delle sezioni di Parigi ha dovuto cessare le sue attività, almeno per un certo tempo, dopo che alcuni membri insegnanti sono stati trasferiti all'estero e non hanno potuto partecipare. Un'altra difficoltà è stata causata da divergenze abbastanza gravi che hanno colpito l'una o l'altra sezione, provocandone la disgregazione. È stato il caso in Algeria. Difficoltà anche finanziarie, anche se si cerca di ridurre il più possibile le spese, l'incontro annuale necessita un finanziamento. E se all'inizio diversi organismi cristiani hanno dato sussidi senza troppe reticenze, loro chiedono ormai uno sforzo simile da parte dei musulmani. Ora le organizzazioni islamiche sono state sempre timide su questo punto. E allo scopo di facilitare l'attribuzione e la gestione dei sussidi, si è rivelato utile chiedere per i gruppi il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità locali. Il caso in Francia e adesso anche in Tunisia. Per concludere, malgrado i problemi a cui ho accennato, la stragrande maggioranza dei collaboratori pensano che l'esperienza deve essere proseguita e che le loro ricerche, anche se difficili e non sempre capite dai responsabili religiosi, possono essere utili alle loro comunità. Ma, come ha scritto uno dei fondatori del GRIC, padre Caspar, qualunque cosa avvenga, quelli che hanno vissuto questi anni di ricerca in comune vi hanno provato un approfondimento della loro fede e sono stati in comunione con quella dei loro collaboratori. Grazie. Ringrazio il padre Ferré e credo che tutti siano stati veramente interessati a questi primi tentativi di una collaborazione profonda, di spirito prima di tutto e di conoscenza, tra cristiani e musulmani. Tutto questo può servire ad esempio anche per altri posti dove si deve tentare di mettere un principio di collaborazione concreta tra musulmani e cristiani.